家国民党很大的，马上就跟着他，就吸了两个政策，二次就是就公真正扩散了政策啊，下。 A un certo punto, quando fai... ti sento un passo di fronte, ti sento, è oscillante, aiuto, penso io. Antonetti, ho sentito il finalino, c'è una portata e ti ha coperto. Me immaginavo, ho visto. Caro, però ho uno schiaffo discreto, deve stare attento. a chi le manda le spiegare che vanno? E fin quando non mi conosciamo, come si chiama non esci a Pizzuetto. Quindi, deve molto stare attento di fare i nomi delle persone, specialmente il mio. Io non cerco nessuno e non voglio essere cercato. Chi mi cerca mi trova, stessi attento. immagino una cosa del genere, mamma mia, meglio niente qua, meglio niente. Oh, ti ha fatto la pernacchia, guarda che tua madre qua non c'è. Pace e bene. Ah, io sono tranquillo già. Non c'è più, non è sopportato, non mi interessa, non ci prendo gusto. A me piace, ci prendo gusto a tirare scappellotti a faccia la persona, quando rompi i coglioni, poi basta. Questo è il mio gusto. Non capite perché vi devo cercare. Mi ha fastidio, non peraltro perché io ho portato a Flamento. E non è mio, non ne devo fare. Punto. E mi hanno detto di non dire niente, mi sto zitto, ma sto in campana, poi vediamo se fa una mossa falsa. Capito, ma... Vabbè, io se fa mossa falsa non è che entro in frequenza a dire faccio mossa, casino in frequenza, no, io spengo la macchina, va la cosa sua, che adesso fa vediamo. Ma no Gianni, questa volta questi tempi sono ancora diversi per me, non ho paura di niente, non ho niente da perdere, quindi devo stare molto attenti, quindi io non cerco nessuno e non voglio essere cercato su queste cose qua specialmente, il resto sono amico con tutti. Ma io non ne so niente, non so nulla, non so sempre tranquillo già, poi solo mi da fare un po' di frequenza perché penso che questa persona è in ascolto, penso, forse non è in ascolto, non c'è niente, tutto qua, ok dai, dai mi guardo un po' di TV e poi annanna che ce l'ho fatta, le 11:48 cavolo, che poi non parato perché la mattina mi alzo sempre presto, alle 4:30 sono già sveglio, dormo poco io, e vabbè, ok, dai signori Billy, grazie del consiglio, lo proseguo, ciao Poponio, ciao Capidue, ciao Gianni, eventuale ascoltone sul canale 10. Riprende Gianni, ascolto fino a Lino e chiudo. Ciao ciao. Comunque il tempo di riparo te lo sto dicendo io, quindi devi aspettare solamente il passo a passo o un altro, tutto lì bloccherà, d'accordo, saluto a tutti, vabbè, faccio quello che intendo io, che mi sentiamo a giocare, vi saremo anche io adesso, per fare la presa Simona. Mi piace solamente lì, non il palacchino. Il palacchino è un'altra cosa, il palacchino è a casa che lo usa solo per cioè, rompersi le balle, è il discorso, l'altro è... Vabbè, a me mi piace solamente per svagarmi, più che altro. Comunque sia, ok, a domani, saluto a tutti, buonanotte, statemi bene, saluto a Giuseppe Domicino che sta ascoltando e tutti gli altri che sono qua, mi ascolto, non c'è problema. Sono abbastanza calmo e Antonè, non ne ho problemi, quindi sono più calmo di tutti. Ok, Capri 2, tranquillo, io non mi faccio sempre cattivo per baracchino, io ripeto, no, se mi devo sfogare vado direttamente alla casa della persona, sono fatto così. Va bene, di nuovo, ciao a tutti, buonanotte, state bene e buon correttile prossime, ciao ciao. Ciao, Tony Caruccio, ci sentiamo domani. si passa il giovedì. Settimana, giusto giusto, ok, ci sei tu, ci sei Gianni, e poi gli altri, quindi vorrei, al bar, se ce la sei, se ce la fai, se lo vuole, quando, un coso, un caffè, quello che è, perché sarebbe bello, guarda, la vita sarebbe veramente bello, ma con la gente, a filmarlo. Ciao, guarda, solo guarda, allucinante, guarda, capellone. Veramente allucinante ce l'hai. Comunque sia, lo sto dicendo, ci vediamo al limite la prossima settimana, si piglia il caffè, quello che è, c'è Tonino, tu e io, perché guarda, mi viene da ridere la verità, perché è allucinante una cosa del genere, mi faccio l'audio, anche il video non sono altro, avere chi è più forte di audio, perché il caffè o ginseng, quello che è, la lanciata, perché non è possibile, c'è un lavoro allucinante, la verità, per io, ma tu sì, è una cosa sorprendente, non passi, il bello è quando passi solo di audio, sembra che stai guardando una tua casa. Vai con i gatti, vai, vai con i gatti! Diceva quello, me l'ha detto, cosa? Vai, collegati, vai, attacca. geniale, vai a coricarti, mi stai disturbando. Ah, io, claro, però, io, mamma mia, ragazzi, sei una cosa allucinante, là, io. Vai a coricarti, stai carignale, ti ho detto che mi stai facendo TV, hai. Non è vero, è figlia mia. Non ci credi mi stai facendo TV, hai. No, a parte sono liscio, ma è tutto, poi... Lo sai che mica ti faccio TV, hai. Aiutare, là. Non sei liscio. Vabbè, c'è ragione tu, là. Infatti c'ho ragione io, perché guardo il segnale. Comunque, fai quello che ti piace. Ma poi non rompere le palle a me quando attacco io. Buonanotte a tutti. E io appena sbrigo due cosette e già salgo, Gianni. Questi giorni non sto manco entrando in radio perché non sono manco motivato ad ascoltare coglionate. Già ci sentiamo per telefono, ciao, buonanotte. Guarda tu, schiaccia a tutti stanotte, te lo sto dicendo io. Non convincere molto, Ocas. Zitto. Sono due canali mi sprattano col baracchino, te immaginaci. Zitto, fanculo a te. Che ti ha dato? Spiegami un po' che ti ha dato. Nel fustino del dash l'ha vinto. Zitto, aspetta. non c'è quale problema, accidenti, non c'è, ti faccio sentire come esci almeno. Quella è colpa di Carlo Salvino, già lo sai, siccome siamo tutti e due, abbiamo dei problemi, siamo antipatici tutti e due, siamo in guerra, quindi tu in pratica c'è un audio allucinante, e passa anche a lui, sono contento la verità, quindi cosa vuoi che dica? Esci veramente forte. Come quando vuoi, guarda la verità, perché è una cosa allucinante, io non lo sopporto più, guarda Claudio, è una cosa allucinante, sì che è forte, è quello che è, non ce la faccio più, guarda, meglio la motivazione tua, guarda, vieni qui a casa, per una settimana almeno parli al posto suo, tu vedrai che lui te lo mangi. A mezzogiorno, a pranzo e a cena, sono matti, te lo dico io. Scusi, impari. Ma che cosa si fa vedere di me, cazzo? Così impari. Cazzo, se mi assomiglia a lui, quanto è brutto. Claudio, che parla di sopra, fregate, intanto gli parli di sopra, perché intanto sono a muro e quindi sei a posto. Di plastica. così impari. Passi qua a casa, no? Per quello non c'è problema. Vieni qua, tanto io sto cercando un altro appartamento lì alla, in una villetta, quindi te vieni qua a abitare con tua moglie, così almeno fai scherzare a Claudio. Almeno mi faccio un paio di risate e sono contentato con la mulattina che sei tu, lo fai scherzare. Problema, paghi l'affitto e sei tranquillo, almeno per quello. Cosa me lo fai in compagnia Claudio, poveraccio, non vuole, vuole una persona a caso che sia cordiale, come sei tu, che c'è bene, come si deve, conosci a Claudio, sai come è fatto, mi piace, come ti posso dire, le persone dinamiche, capito? Aspetta un secondo, due minuti. Santa Maria Madre Nostra, salva la patria, ragazzi. In garage ci metto. Sei fresco tu. Allora, vai, vai lì dove abita Antonello. Ti dà anche il garage, così si è a posto Gianni, che problemi ci sono? Io, state un sì, infatti, che se vieni qua poi ti contagiamo, cazzo. Già ci siamo io, Antonello, pazzi, anche tu ci vuoi. Un secondo, soletto. Mazzo, ma cosa Jimmy, adesso ci fa un pensierino, uomo da toppa. Secondo me ti sentono anche in piazza, cazzo. Gesù Maria, cara. Si apre la finestra, ti sento a te parlare. Il volume è abbassato della radio. Mamma mia quanto gridi, cara. Non gridare, cazzo. Abbassa le voci e ti sentono in piazza i due. Fortissima Gianni, segnale 6:09:20, non ti ho mai visto così e sentito così. Adesso domani con la radio la cambi, ne metti un'altra, capito? Lasciala stare, lascia stare questa, che stai andando alla grande. Non tocchese, non tocchese, mi attoppa Santonello e buco. Sarà per la prossima cuocomane. Ciao Gianni, un saluto, dai, appena ho 5 minuti salgo a prendermi quel commutatore, dai, me lo faccio cambiare l'Antonello, che lui è più pratico, più anche io mi incasino, me ne vado da lui, porto la radio, devo cambiare il commutatore al Colma, l'Antonello, che c'ha 5-6 canali che non commutano, capito, che c'ha, sono consumate le lamelle, e me l'ha dato nuovo Gianni, bisogna cambiarlo. Vengo da te lì e lo facciamo, porto la radio, appena c'ho 5 minuti e lo cambiamo, capito? Io non ne ho voglia, non ci vedo un cazzo. Dai, vi saluto ragazzi, che mia moglie se n'è già andata a dormire e se non la disturbo, anche se c'ho la mia stanza si sente la voce lo stesso. Ciao a tutti, anche quelli che sono in ascolto, ce ne sono tanti, dai, come cuffie in testa. Non vi addormentate, staccate i microfoni, prima che vi esce qualche rumore strano. Riprendi Antonio, ascolti finale e poi chiudo, eh. Ci sentiamo la prossima volta, ciao. Eiaia, c'è problema. Ciao, ciao, alla prossima. Oggi mi sono veramente divertito, guarda. Ti fate schiattare, ho fatto. E noi non ne abbiamo problemi, ciao Antonio, stai con Gianni, fai compagnia a Gianni, eh? Yeah, ciao. Al 118 devono chiamare. Senza tanti camera non ti preoccupare, fregatele, non è niente. Domani poi al limite quando vuoi venire a prendere quella specie di lavatrice, lo sai anche tu, in pratica per fare, per cucire la roba basta chiamarmi, non c'è problema. buonanotte, ciao a tutti.